Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, siamo finalmente insieme, sono le 11.05, Giorgio Mattei in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il dottor Franco Confalonieri qui seduto già in studio, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Parleremo di, come sempre facciamo al venerdì, di attività sportiva, ma andiamo a sentire i titoli del sommario. Sport in vacanza, attenti agli infortuni. Il buon umore inizia dalla prima colazione. Influenza di virus A, i medici inglesi la curano così. Sì, oggi vogliamo parlare di vacanze. Molti di noi approfitteranno proprio delle vacanze per dedicarsi con regolarità e costanza all'attività sportiva preferita, ma proprio come fanno le mamme, io per prima, quando i ragazzi partono per le vacanze, dicono: mi raccomando, vai, divertiti, ma stai attento. Allora, il dottor Confalonieri oggi farà, no, un po' da mamma, dottore. Questa mi mancava ancora, un ruolo che mancava, va bene. Beh, però, no? Va bene. Non è un ruolo importante. Bravo, era un tranello. Pieno di responsabilità, vediamo di esserne degni. Io penso che lei abbia buone probabilità. Speriamo. Per farcela, ma le ho messo accanto un altro suo collega. Non posso dire che fa il papà, se no è troppo banale, ma aiuterà i nostri ascoltatori a gestire un po' le emergenze e soprattutto a capire che cosa fare se, nonostante i consigli del dottor Confalonieri, un incidente di percorso ci immobilizza durante la nostra attività sportiva, rovinandoci un po' le vacanze. È tornato a trovarci il dottor Stefano Respizzi, che è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno. Dottor... Posso fare a meno lo zio? Sì, lei faccia lo zio, sì. Adesso io qua non ho nessun ruolo, quindi no, devo mettervi solamente d'accordo. Parlatevi tra voi. Tra l'altro, se volete approfittare del dottor Respizzi, potete farlo anche mandando un'email all'esperto risponde di Humanitas, perché dottor Respizzi, questo sarà un po' il tormentone, il tema del mese di Humanitas. Certo, proprio in questa stagione, ahimè, capitano abbastanza infortuni, quindi abbiamo pensato di dare questo tipo di opportunità ai nostri potenziali, purtroppo, pazienti, offrendo delle risposte e soprattutto una linea aperta, anche dal punto di vista della mail, appunto, del nostro sito, per dare delle risposte alle persone che sono in giro per l'Italia, dei milanesi in giro per l'Italia, che si trovano in difficoltà e che quindi possono avere dei consigli. Ma come? Solo i milanesi? No, ovviamente maggior parte dei nostri pazienti sono milanesi, però naturalmente vale per tutti. Però posso scriverle tutti, anche, certo, da Palermo o no? Assolutamente sì. Assolutamente. Questo mi rassicura. Certo. Allora, io direi di ricordare il nostro numero verde, 824-0024, approfittatene per il prima e per il dopo, direi, e i messaggi al 349-238-6666. Dottor Confalonieri, possiamo scegliere tante strade per affrontare il tema di oggi. L'attività, dividere per attività sportiva, dividere per fasce d'età, incrociare le due variabili, quale preferisce? Ma iniziamo dividendo per attività sportiva, sì, perché c'è una prima grande suddivisione che è importante fare. Gli sport di squadra o i giochi di squadra, che spesso sono anche sport di contatto, e gli sport individuali. Sicuramente i rischi legati agli sport di squadra sono molto maggiori, per due motivi. Innanzitutto perché c'è una componente di tipo agonistico, quindi è più difficile controllare il nostro impegno, controllare il nostro sforzo, controllare il nostro gesto tecnico, e quindi se non siamo allenati siamo più predisposti all'infortunio. In secondo luogo, perché mentre nello sport individuale il movimento è prevalentemente ciclico, quindi siamo più soggetti a un sovraccarico di tipo cronico, quindi eventualmente a un infortunio che si manifesta perché abbiamo esagerato con la quantità di sport, e quindi qui torniamo al caro concetto di gradualità, per cui se partiamo adagio e incrementiamo un poco alla volta i rischi sono minimi. nello sport, nel gioco e nel gioco di squadra in particolare, il movimento non è ciclico ma varia in funzione delle situazioni di gioco, appunto. E quindi le sollecitazioni sono poco prevedibili, sono più intense e sono maggiormente a rischio. Quindi subito un primo consiglio: con lo sport di squadra sicuramente vi divertite molto di più, probabilmente vi allenate un po' meno, sicuramente rischiate di più indipendentemente dall'età e dal livello di allenamento. Poi eventualmente incroceremo appunto i dati, come si diceva, ripartendo in termini di consigli sulla prevenzione dall'età e dal livello di allenamento. Però questa mi sembrava una prima indicazione molto importante. Quindi di squadra o individuale? Maggiore attenzione se fate sport di squadra, poi vediamo eventualmente cosa fare da un punto di vista della prevenzione. E invece, dottor Respizzi, vorrei poter approfittare di lei per tutti i nostri ascoltatori che hanno avuto magari un infortunio in questo anno e adesso si stanno rimettendo in piedi, stanno cominciando nuovamente a carburare e vogliono dire: sono pronto, allora finalmente posso continuare a riprendere, direi, a giocare a calcetto piuttosto che a correre, andare in bicicletta o, che so, arrampicarmi o una partita di tennis. Quindi possiamo dare anche questa mano ai nostri ascoltatori? Sicuramente sì. Io il consiglio che do a queste persone che hanno probabilmente subito appunto un infortunio, che quindi sono in una fase di recupero, è di sottoporsi a dei test. Ci sono dei test di valutazione funzionale, proprio si chiamano, sì, che ci consentono, che consentono a noi medici di verificare quanto una persona ha recuperato. Sono test che possono misurare la forza, ad esempio, e mi possono dire se una persona ha delle caratteristiche di forza normali per la sua età, per il suo peso, per il suo sesso. Altri test che servono invece a valutare la capacità di resistenza di una persona, quel fiato, come viene detto, no? E quindi sono tutti test molto semplici, molto facili, che possono essere effettuati per dire a una persona, un po' come si fa il tagliando dell'automobile. Sì, no? Mi veniva in mente la stessa cosa, ma se il tagliando vado per dire dal meccanico, esatto, per fare questi test dove un dottore, vado? Sì, un dottore medico dello sport che ha proprio nella sua specialità la competenza per fare questo tipo di valutazioni. Quindi sono esattamente, possiamo paragonarli ad un tagliando, per cui si controlla la presenza, la cilindrata del motore, la forza che la persona riesce a esprimere, per quanto tempo la riesce a esprimere, la capacità di resistenza, l'elasticità delle articolazioni, e a quel punto il meccanico dottore in questo caso ti può dire: guarda, vai tranquillo e riprendi la tua attività, oppure guarda che qui c'è una problematica, c'è da aggiungere dell'olio, per fare sempre questo esempio. Le piace, vero, il meccanico, l'idea? Si sente un po' meccanico anche lei? Molto poco, per la verità, ma devo fare il tagliando della macchina settimana prossima. Eventualmente così. Allora, 800 24 00 24, dottor Confalonieri, come d'abitudine tocca a lei lanciare una domanda ai nostri ascoltatori per attivarli ad intervenire al nostro numero verde o a scriverci, come già stanno facendo, mandandole anche tanti saluti. Grazie. Allora, io chiederei proprio questo. Noi siamo partiti dall'idea che con l'estate si aumenti l'attività fisica e il livello di attività fisica. Vorremmo capire se la nostra idea è giusta o sbagliata. Cioè, quanti di voi d'estate si dedicano allo sport maggiormente che non durante l'inverno, quanti di voi invece d'estate lo abbandonano perché magari si dedicano solo alla famiglia, al divertimento, al viaggio o a quant'altro. Che potrebbe essere anche una buona idea. Potrebbe essere un'ottima idea, però vorremmo capire appunto, per voi l'estate è il momento dello sport o è il momento del riposo? Incrementate il vostro livello di attività o lo diminuite? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, siccome siamo partiti proprio da questa suddivisione, preferite il gioco, quindi il tennis, il calcetto, il beach volley, oppure preferite un'attività individuale? Così che ci orientiamo anche un po' di più in termini di consigli di prevenzione. Quindi due grandi sfide tra coloro che fanno più sport e coloro che ne fanno meno, vediamo chi prevale, e tra coloro che scelgono un gioco di squadra e coloro che scelgono un'attività individuale, vediamo anche qua chi prevale. La sfida è lanciata. Allora scatenatevi, 800 24 00 24. Una mela al giorno. Allora, ieri ci eravamo lasciati con un appuntamento con il dottor Attilio Speciani. Dottore, buongiorno. Buongiorno di nuovo a tutti voi. Pensa se mi dava buca. No, perché come avrei potuto? Buca, ma no, dai. Anche perché insieme al dottor Speciani noi volevamo imparare un po' di ricette per recuperare il buon umore, perché ormai è provato che quello che mangiamo influenza la nostra salute, non solamente fisica ma anche emotiva. Ma Ma infatti io ieri, e quindi non avrei mai potuto dartela a buca questa, perché avevo detto fatevi una ricca prima colazione. E io la faccio sempre, però oggi devo dire ho rincarato la dose. Benissimo, questo perché ad esempio si sta scoprendo che esiste una particolare modalità di risposta dell'organismo a seconda degli orari in cui noi mangiamo. Per cui se dobbiamo stimolare il buon umore è fondamentale che quel primo momento della giornata, i primi 45 minuti, che sono il momento in cui, prova a pensare un milione di anni fa nel paleolitico, tu ti guardavi in giro e dicevi ma c'è da mangiare o non c'è da mangiare? Allora se c'è da mangiare il buon umore arriva, giustamente. Se non c'è si va in crisi, in ansia, si ha paura che di morire di fame, e quindi la tendenza nel corso della giornata non è delle migliori. Quindi il fare una prima colazione che deve essere sempre ben bilanciata. Io dico che la prima colazione deve essere il pasto più ricco, quindi quasi il 40% delle calorie della giornata, quindi molto di più di quello che a volte ci sentiamo dire, e quindi mettere dentro, oh, ma lo sai che tutti arrivano e dicono ma io sono stato in Trentino, sono stato in Gran Bretagna, sono stato all'estero, come stavo bene facendo le prime colazioni. Ma qui, noi è da sempre che lo diciamo, lo so, e poi arrivano a casa e dicono non ho fame, ma come si può non aver fame al mattino? No. È un tempo, ma io dico metterlo a budget, questa roba va messa perché fa parte della costruzione della propria vita e del proprio benessere. Quindi la prima regola è il buon umore inizia dalla colazione del mattino, esatto. E qua non si scappa, se volete avere il buon umore dovete sforzarmi almeno per i primi giorni a mangiare qualcosa. Poi sono velocissimo su questo, tutti dicono ma se io mi mangio, che so, una piccola bottarella di carboidrati, il dolce, il pasticcino, qualcosa, in effetti sto meglio, e tutti sappiamo, abbiamo imparato che i carboidrati, la pasta asciutta, il pane aumentano un po' di serotonina, ma, e qui lo dico con precisione, è un fenomeno illusorio e transitorio, cioè essendo transitorio diventa illusorio, perché? Perché tu hai un rimbalzo immediato della serotonina per cui ti senti meglio per circa 15-20 minuti, l'organismo che non è abituato a ricevere zuccheri immediatamente li abbassa, fa andare in ipoglicemia e rinasce questo senso di digiuno e di paura. Allora, per mantenere il buon umore, infatti ormai moltissimi studi stanno evidenziando che l'assunzione di soli carboidrati determina poi dei problemi. Allora, il suggerimento in modo molto semplice, mangiamo ad esempio cibi integrali che abbiano un indice glicemico basso, per cui tipo il pane integrale, un dolce fatto con della farina integrale, noci, nocciole, frutta che possono essere messe insieme con tranquillità e che quindi ci mantengono a posto. Quando mangiamo dei soli carboidrati, aggiungere sempre un po' di proteine, non c'è bisogno di andare a mangiare carne e pesce a metà pomeriggio, si possono aggiungere due nocciole, tre mandorle, una fettina di prosciutto, qualcosa di questo genere, in modo che il bilanciamento dell'insieme non ci ricrei questo stato di ipoglicemia. Allora il buon umore resta ed è un dato importante da mantenere. Dottor Speciani, grazie per essere stato con noi. Noi ci sentiamo presto. Tra l'altro ricordo il libro del dottor Speciani e anche di Luca Speciani, Dieta GIF, Dieta di Segnale, Rizzoli Editore. Dottore, a presto e un bel sorriso allora. Davvero un sorriso per tutti. Grazie. Grazie ancora, buona giornata. Buona giornata. Pronto soccorso. Stiamo tornando di nuovo ad occuparci del tema del giorno, attività sportive in vacanza, raccomandazioni del dottor Confalonieri, mi raccomando non fatevi male, ma nel caso abbiamo il dottor Respizzi che ci dice, ci aiuta a capire come rimetterci in pista. Abbiamo già tanti messaggi, io devo dire che molti di questi, almeno ne sono arrivati una decina, che chiedono informazioni su questi test di valutazione funzionali a cui aveva fatto accenno il dottor Respizzi, che sono questa sorta di tagliando, dottor Respizzi, così lei l'ha definito. Esatto. Ecco, ma allora le domande si riguardano. Che cosa succede? Che cosa mi fa il medico sportivo? In che cosa consistono? Dunque, quanto costano? Beh, certo. Dunque, noi dobbiamo pensare al nostro organismo come una macchina strepitosa che effettua una prestazione. Questa prestazione è garantita dalla forza che io posso misurare con una macchina che si chiama dinamometro isocinetico. È una macchina che, appunto, essendo un dinamometro, misura la capacità di esprimere forza dei muscoli. Ad esempio, è una macchina che assomiglia molto a quelle che ci sono nelle palestre, che servono per potenziare i muscoli delle gambe, delle cosce, la famosa leg extension, per molti nostri ascoltatori sanno che cosa intendo. Dottor Faranieri, lei lo sa bene. Sì, così. Beh, sì. È una macchina nella quale io faccio un gesto di estendere la gamba e flettere la gamba, sì. Quindi facendo uno sforzo con i muscoli della coscia, e questa macchina rileva la forza espressa. Quindi... Esattamente. Quindi io so esattamente quanti chili riesco a spostare, quanta forza riesco a esprimere facendo questo gesto. Quindi questa è una macchina che valuta. Dottor Confalonieri, di che cosa ci può capitare d'altro? No, possiamo valutare la forza e soprattutto completo, probabilmente quello stava già dicendo il dottor Spizzi, valutare anche se c'è una differenza di forza tra un arto e l'altro e quindi un eventuale squilibrio. Posso valutare gli squilibri fra i diversi gruppi muscolari e poi posso valutare tutto quello che è il settore cardiovascolare, cioè la resistenza. Quindi vedere la capacità di risposta e di adattamento dell'organismo allo sforzo e conseguentemente calibrare l'intensità degli sforzi che consiglierò al mio cliente o paziente. Un costo indicativo potrebbe essere intorno ai 90 euro per valutazione per di questo tipo. Sì. Per questo tagliandone. Da Piacenza ci chiama Mario. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Sta per partire Mario? O è già partito? Un mesetto. Ah, allora è ancora lunga. Sì, però per me è sempre vicino. Volevo dire questo. Io prima di tutto preferisco gli sport individuali, sì. Vado in palestra, però ecco, dato che io vado fra un mese in ferie, vado all'estero, volevo sapere se a causa del mio nervo simpatico che quali precauzioni devo prendere, perché io soffro di un nervo simpatico purtroppo, mi è scoppiato a marzo, mi è scoppiato questo problema. Allora, volevo sapere quali precauzioni per non stare male anche in ferie. Certo, per lasciarlo simpatico, No. Dottor Respizzi, cos'è questo nervo simpatico? Non ho capito bene cosa intende dire il nervo simpatico. Mario, in pratica... praticamente il sistema nervoso simpatico. La risposta esagerata del sistema nervoso simpatico? Praticamente io ho dei sintomi a volte che mi prendono lo stomaco, cioè vanno dallo sterno allo stomaco. Sì, e hanno capito. Dei sintomi, praticamente un formicolio al braccio, vuoto allo stomaco, a volte un po' di dolore e una pressione forte al petto. Ho capito. Ok, non sono disturbi simpatici. No, non sono simpatici ma antipatici. Però, allora, io direi che quello che stava dicendo prima Confalonieri sulla progressione, sulla cautela nel cominciare a fare degli esercizi, in questo caso si impone ancora di più. Quando c'è questo tipo di sintomatologia, il nostro organismo sostanzialmente ci dà una risposta alterata, esagerata, tra virgolette, anche a qualunque tipo di stimolo. Sì. Quindi il consiglio è di essere ancora più cauti, di essere ancora più tranquilli e soft nel partire e nel fare gli esercizi. Il nostro ascoltatore è sicuramente una persona che deve avere molta cautela, molta attenzione e non farsi prendere dalla smania di raggiungere prestazioni fenomenale in breve tempo. Devo dire che leggendo i messaggi, ma adesso lo chiederemo anche a Ivano che ci chiama da Milano, sembra che i nostri ascoltatori si distribuiscano equamente in chi in estate aumenta l'attività sportiva e invece in chi, come molti ad esempio dicono con sto caldo, non ho voglia, mi dedico alla famiglia, la riduce, la rallenta o proprio non la fa. E intanto Ivano, vediamo a quale di questi due gruppi appartiene. Ivano, buongiorno. Buongiorno, io appartengo al gruppo che durante l'anno faccio sport tutto l'anno, sì. E in estate faccio mantenimento praticamente. Quindi non smette mai? Praticamente non smetto mai. Però adesso sono stato obbligato a smettere perché due settimane fa ho preso uno strappo sulla coscia dietro vicino al gluteo. Ma come ha fatto? E a giocare a calcetto. Vede. Allenato e facendo tutto il riscaldamento, facendo i... Però lo strappo è arrivato. Se portava al cinema sua moglie a mangiare una pizza... È quello che mi ha detto anche la moglie. Vede? Noi diciamo... ci sentite troppo poco. Va bene, Ivano, faccio uno strappo e le passo il dottor Respizzi, anche se lei poteva... dottor Respizzi? Sì. Allora Ivano non ha sentito il consiglio della moglie e puntualmente si è strappato. Perché le mogli te la tirano anche un po', per così dire. È vero, è verissimo. Anche mio marito mi dice così. Esatto. Vabbè, comunque. Allora, comunque sia, l'esempio che ha fatto il nostro ascoltatore calza perfettamente. Le lesioni muscolari sono una delle cose in assoluto più frequente ma purtroppo più misconosciute, nel senso che uno sente lo strappone, sente qualcosa che non va, ha dolore per qualche giorno e poi insomma fa finta di niente, magari non si rivolge neanche a un pronto soccorso piuttosto che no. E invece le lesioni muscolari sono molto frequenti, sono molto diffuse, sì, soprattutto negli sport che prevedono dei gesti molto dinamici. Il calcetto è un esempio tipico, il tennis, quando devo fare uno scatto, quando devo fare qualcosa del genere, no? E questo è una cosa che purtroppo viene molto spesso sottovalutata e che poi invece a lunga distanza può provocare anche qualche importante deficit. Che cosa succede? Che il muscolo si strappa, si rompe. E questa è una situazione che genera un importante ematoma e che spesso si vede anche sotto cutanea, sotto la pelle, nel senso che una persona scopre di avere un ematoma senza capire bene perché gli è successo. Quando ci sono queste situazioni, un dolore importante, trafittivo, come se fosse una pugnalata dentro nel muscolo, io consiglio assolutamente di non sottovalutare questo evento, di portarsi in un pronto soccorso, di farsi visitare e di fare almeno una ecografia per definire l'entità della lesione. Se poi è una piccola lesione, sostanzialmente non si fa quasi niente, basta stare a riposo, ma se è una lesione importante si rischia poi di avere un danno che anche nei mesi successivi può essere molto fastidiosa. Quindi questa è una delle cose più frequenti e purtroppo meno considerate. Ancora più grave è quando si presenta una situazione del genere e si è in una realtà turistica magari poco nota, dove magari c'è qualcuno che si propone di fare un bel massaggio. Ecco, lì è un disastro, nel senso che se un massaggiatore, ovviamente incompetente in questo caso, se si capita in mani sbagliate, si rischia di aggravare la lesione andando a rompere ulteriormente il muscolo. Quindi molta attenzione e non sottovalutare questo tipo di aspetto. Quindi nel caso del nostro ascoltatore deve fare almeno un'ecografia, capire l'entità della lesione e curarsi di conseguenza. Una lesione muscolare grave e quindi può richiedere... ho molto male per quando sei grave. No, non è molto dolorosa, è questo che frega. Sì. È dolorosa solo se si fa il gesto. E mi aggiunge un ascoltatore e non mettere ghiaccio. No, beh, il ghiaccio serve soltanto nei primi 2 o 3 giorni per togliere l'infiammazione, ma niente di che, non è quello decisivo. Ma i tempi sono importanti da sapere. Una lesione muscolare grave che a riposo non dà neanche del dolore, ci vogliono 60 giorni per recuperarla, E questo lo vediamo tutti i giorni leggendo quello che succede ai calciatori professionisti. È una lesione importante che richiede molto tempo, quindi adesso io non so l'entità della lesione dell'ascoltatore, ma direi di non sottovalutarla e di approfondire quello che è successo. Un ascoltatore mi scrive: con questa afa bisogna stare stravaccati al fresco, ma perché a 30 gradi centigradi con un'umidità al 60% uno deve fare sport? Bisogna volersi male. Ma andiamo a Paolo che ci chiama da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti, io volevo fare questa domanda. Io sono un pallavolista, gioco da 26 anni e non mollo, anche nonostante l'età, ne ho 39. Beh, nonostante l'età, è giovane, giovane come l'acqua. No, parlo sportivamente parlando. Quindi lei non molla, gioca a pallavolo e adesso in estate cosa farà? In estate il mio problema è questo, siccome soffro di un problema alla spalla, credo un po' un classico della pallavolista, E vabbè, non mi permette d'estate di fare quelle partitelle così perché ci vuole un riscaldamento un pochino più prolungato per me. E da una diagnosi è uscito che praticamente io ho un legamento che si sta sfilacciando. Mi hanno consigliato di potenziare la fascia muscolare per aiutare tutta la parte dei legamenti. Volevo capire dal dottore se è una cosa... Se è utile e come deve fare. Dottor Confalonieri, vuole aiutarlo lei, Paolo? Ma io direi, relativamente al problema della spalla, sicuramente una ginnastica di tipo preventivo mirata alla stabilizzazione della spalla e quindi al contenimento del problema ai legamenti che ha, credo che possa essere utile ed importante. Magari poi il mio parere può essere completato da quello del dottore Spizzi. In assoluto però io approfitterei dell'estate per far riposare la spalla e magari allenarsi organicamente attraverso uno sport di tipo aerobico, in questo caso magari la bicicletta piuttosto che la corsa, e poi per mantenere allenati tutta quella che è la reattività, quella che è la velocità di reazione, quelli che sono i riflessi, perché in questo modo, e quindi attraverso un gioco come può essere il calcetto o come può essere il tennis, anche se qui nascerebbero problemi aggiuntivi alla spalla, rimane allenato come atleta senza sovraccaricare il punto critico che in questo caso, come in tanti pallavolisti, è rappresentato proprio dall'articolazione della spalla. Michele, dalla provincia di Milano, buongiorno. buongiorno. Io sono nelle sue mani, se lei è breve non mi sgridano, se no me le sento io, perché abbiamo i mercati, però non volevo farla attendere. No, sia mai, i mercati sono più importanti. Ascolti, io praticamente faccio parte della categoria che d'estate mi butto nello sport, ed è tutta natura, sport individuale. Per quello che mi riguarda, dal punto di vista problematiche, non ne ho. Bravo. Ad eccezione che vado a correre, perché lavoro tanto e quindi non ho tempo di andare in palestra. Mm. E ci sono dei periodi, come in questo caso, questo periodo particolare, in cui vuoi lo stress, vuoi la crisi, vuoi tutta una serie di cose, ho un rendimento estremamente basso e mi sento molto più stanco e non riesco a completare magari i giri di corsa che faccio abitualmente. Siccome andiamo in vista dell'estate, sicuramente questo si allievierà. Però volevo capire se a questo può contribuire un tipo di alimentazione oppure semplicemente stress, come si suol dire in maniera molto più semplice. Grazie Michele. Dottor Confalonieri, è solo stress? In linea di massima penso di sì. Il concetto dello stress non è così semplice come sembra. Noi abbiamo un'unica capacità di risposta endocrina ai diversi stress della vita, quindi il momento in cui siamo fortemente sollecitati, per esempio dalle problematiche professionali, è chiaro che il nostro rendimento sportivo diminuisce, lo accettiamo, andiamo più adagio, facciamo un po' meno e tutto funziona con calma e gradualità. Allora, ricette per evitare di farsi male durante le vacanze mentre pratichiamo attività sportiva, e quindi tutte le raccomandazioni del caso, ma anche aiuti per chi magari si è infortunato nell'anno in corso e vuole riprendere a fare attività sportiva. Noi questa ricetta stiamo dando gli ingredienti, mi sembra che sulla gradualità siamo tutti contenti e d'accordo, vero dottor Confalonieri? Sì, certo. Allora, intanto che voi state cercando di pensare a come organizzerete le vostre vacanze, se deciderete di buttarvi nell'attività sportiva, rallentarla o, come molti mi scrivono, chiudere per poi riprendere a settembre, parliamo di influenza A e vogliamo in Inghilterra. Sono 100.000 i casi di sospetta influenza A registrati nell'ultima settimana, il doppio rispetto alla precedente, anche se la mortalità non è aumentata. E dato che molti dei nostri ragazzi si trovano in Inghilterra per vacanze studio, sono in procinto di partire, abbiamo pensato di dare un colpo di telefono a un medico italiano che vive e lavora da anni in uno dei più prestigiosi ospedali della capitale londinese. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Paredi, pneumologo e professore all'Imperial College di Londra, ospedale Royal Brompton. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, lei che ha la situazione sotto mano, cosa si sente di dire ai genitori che hanno un po' di apprensione nel pensare al loro ragazzo in Inghilterra o per quelli anche che stanno per partire? Ma prima di tutto mi sento di rassicurare tutti i genitori. I numeri che lei ha dato sono veri, ci sono 100.000 nuovi casi di influenza H1N1 registrati in Inghilterra nella scorsa settimana. Questo è un aumento del doppio rispetto alla settimana precedente. Questa settimana, per fortuna, posso dire che il numero di nuovi casi è diminuito, quindi sembra che forse stiamo iniziando una discesa verso un numero inferiore di casi. Bisogna guardare un po' in prospettiva su tutta la popolazione inglese quanto questo significa. Significa che una persona su 500 ha avuto o ha l'influenza in Inghilterra in questo momento, quindi bisogna incontrare 499 persone prima che alla fine se ne incontri uno con l'influenza. Siamo a un livello molto inferiore rispetto alla pandemia del 1968, quindi è sicuramente una situazione che bisogna tenere sotto controllo, ma bisogna anche metterla in prospettiva, e come vi ripeto mi sento di rassicurare che il governo inglese ha agito in modo veloce ed efficiente nel controllare la situazione, che in questo momento non è ancora preoccupante. Professore, ma nel caso il nostro figlio, mia figlia parte per l'Inghilterra, mi telefona e mi dice: mamma, mi sento l'influenza, ho la tosse, la febbre, come si occuperanno di mia figlia i medici inglesi? si occuperanno molto bene. L'Inghilterra è molto pronta da questo punto di vista, si è agito molto repentinamente fin dall'inizio per contenere la situazione. Dal punto di vista pratico ci sono due modi per avere informazioni, sì, riguardo cosa fare. Uno è chiamare i medici di famiglia locale, i quali fanno una diagnosi presuntiva e possono dispensare addirittura al telefono ricette per il trattamento con un antivirale, il Tamiflu. Alternativamente si può fare la stessa cosa su una linea verde telefonica che è stata aperta proprio ieri, o su internet, dove si ricevono, oltre a informazioni generali sulla patologia, è anche possibile ottenere una ricetta per il Tamiflu, che poi viene raccolto in centri di distribuzione localizzati un po' in tutto l'Inghilterra. Quindi c'è un metodo diretto attraverso la situazione con il GP, con il medico di famiglia, oppure indiretto per via internet o attraverso la linea verde che le dicevo. Professor Paredi, ma è vero che sì, i ragazzi, adesso noi parliamo dei ragazzi nostri, ma in genere, no? I pazienti inglesi vengono curati a distanza, e questo proprio per limitare il contagio? Sì. L'amico dal medico? Esattamente, sì. Le raccomandazioni sono esattamente come dice lei. Nel momento in cui si pensa di avere l'influenza, si chiama il GP, il medico di famiglia, il quale, attraverso un'analisi telefonica, c'è una specie, noi chiamiamo checklist, dove si controllano una serie di sintomi. Se i sintomi sono corrispondenti all'influenza, viene dato un numero, un voucher, un numero al paziente, il quale poi dovrà darlo ad un amico che andrà con questo numero stesso in un centro di distribuzione per il Tamiflu a raccogliere il medicinale. Questo per evitare il contagio nelle diversi ambulatori e diminuire l'esposizione del virus alle persone in attesa nell'ambulatorio stesso, oltre che al personale sanitario. Senta, scusi professore, ma ci sono già un po' di polemiche, no, su questo modo di organizzare la situazione e di affrontarla. Beh, ad esempio, c'è chi dice che potrebbe aumentare la possibilità di incorrere in errori diagnostici. Si metta nei panni delle mamme italiane, sa che noi siamo apprensivi. È possibile? Errori diagnostici in questo momento è il vantaggio di avere l'influenza in questo periodo dell'anno, in estate, sono molto difficili. Se uno ha dei sintomi influenzali ora in Inghilterra, al 99% ha l'influenza di tipo suino. Sì. Non ci sono altri virus nella popolazione in questo momento che danno sintomi simili, quindi la probabilità di fare un errore diagnostico è molto bassa. C'è la possibilità di overtreat, di trattare troppa gente che magari non avrebbe bisogno del Tamiflu. Il Tamiflu è un medicinale abbastanza maneggevole, con pochi effetti collaterali, principalmente la nausea, e quindi non dà grosse preoccupazioni. Voglio dire, gli effetti collaterali della medicina non sono tali da disturbare il nostro approccio di overtrattamento rispetto a un atteggiamento più rilassato. Professore, quindi, prima di salutarla, mi dica lei. Sì, volevo solo dire, in inverno la situazione sarà un po' più difficile, questo è quello che ci spaventa un po' di più, perché ci saranno altri virus nella popolazione, quindi sarà più difficile distinguere chi ha la forma influenzale suina rispetto a altre forme virali, quindi a quel punto la situazione sarà più difficile da distinguere, ma in questo momento siamo abbastanza rilassati nel trattare chiunque abbia problemi influenzali con degli antivirali. Professore, prima di salutarla volevo chiederle un consiglio. Se in valigia, a chi non è ancora partito, destinazione Inghilterra, lei come pneumologo e come esperto, cosa suggerirebbe di portare come farmaco? Per strammatizzare direi un ombrello, perché piove molto spesso, ma a parte l'ombrello direi i soliti farmaci antinfiammatori, sì, dal paracetamolo alla aspirina, farmaci anti-influenzali che si possono comprare senza prescrizione medica in Italia, e soprattutto avere un contatto in Inghilterra. La linea che io le dicevo telefonica è accessibile solamente dall'Inghilterra. Sì. E quindi direi la possibilità di avere un'influenza è bassa, la possibilità di morire di influenza, questo è quello che spaventa di più, è talmente bassa che è quasi infinitesimale. Sì. Quindi direi divertitevi in Inghilterra, ma non dimenticate l'ombrello. Grazie professor Paredi, a presto, buona pioggia, se tanto lei l'ombrello ormai ce l'ha sempre in tasca. Ce l'ho incorporato. Incorporato. Buona giornata, grazie davvero. Allora, adesso noi torniamo in Italia, andiamo ad occuparci del caso di Andrea, che ci chiama da Firenze. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Lei in Inghilterra ha qualcuno? No, nessuno in Inghilterra. Va bene, allora occupiamoci di lei. No, niente, io vengo dal basket, ho fatto basket quando ero più giovane, ora ho 49 anni e corro. Ho corso un paio di maratone, confermo quanto è stato detto, cioè che lo sport di squadra è più divertente, però andando là con gli anni è anche uno sport più meditativo, diciamo, acquista un certo fascino, perché poi correre dietro agli avversari più veloci e più giovani incomincia a diventare problematico. No, volevo fare questa domanda, volevo domandare se per una persona come me che pesa 80 kg è vero quanto da più parti mi si suggerisce che la maratona è troppo usurante e converrebbe comunque continuare l'attività di running, ma su distanze più brevi che siano meno usuranti, per poter andare anche più là con gli anni, diciamo, nell'attività sportiva. Senta Andrea, ma lei cosa piacerebbe fare? A me piace la maratona. Mi è piaciuto molto, mi ha detto fo la corsa, è magnifico. Allora, dottor Confalonieri. Indubbiamente la corsa di per sé è usurante, comporta un sovraccarico a livello di diverse articolazioni, dall'anca alle caviglie alle ginocchia e via dicendo. Però perché negarsi il gusto della maratona nonostante l'età e gli 80 kg? Bisogna cercare di farla con intelligenza, quindi magari fare allenamenti più mirati, più specifici, anche più intensi, ma con quantità di corsa globale un pochettino ridotta, integrare la corsa con il nuoto e col ciclismo per costruire la resistenza aerobica generale senza sovraccaricare le articolazioni, scegliere con la massima attenzione le scarpe, variare il terreno su cui si corre in modo da ridurre il sovraccarico specifico. Secondo me, con questi accorgimenti il nostro ascoltatore può continuare a programmarsi le maratone. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è focalizzata sul golf e sul gomito. Volevo sapere se ci sono dei fastidi associati alla pratica del golf sul gomito e se sì, quali? Dottor Respizzi, Alessandro ci permette di parlare di golf. Devo dire che è uno sport che con il dottor Confalonieri trascuriamo. E tante volte i nostri amici golfisti qua a Radio 24, ce ne sono diversi, ce l'hanno sottolineato dicendo non parlate mai del golf, e quindi Alessandro ci dà un po' uno spunto per farlo. Certo. Allora, dunque, bisogna dire una cosa, conoscendo bene il Confalonieri, che ama gli sport estremi e duri, il golf per loro viene considerato un'attività di gioco con un impegno metabolico molto basso, come in effetti è, per la verità. È più un'attività di tipo gioco che sport molto impegnato. I cambiamenti però che si sono verificati negli ultimi anni, e Tiger Woods è l'esempio tipico, hanno fatto sì che si immagina ormai adesso la persona che pratica golf non il pensionato americano con un po' di pancetta, ma un atleta vero e proprio. Questo ha fatto sviluppare delle patologie che prima non esistevano e che adesso invece cominciano a comparire. Quello che descrive l'ascoltatore è l'epicondilite del golfista. C'è il gomito del tennista, no? Classicamente, sì. Se ne sente parlare tante volte. C'è anche il gomito del golfista. per la verità c'è anche il gomito dell'elettricista. E il ginocchio della lavandaia. Allora, questo tipo di classificazione molto semplice, che però rende l'idea, il gomito del tennista, è dovuto a una sollecitazione dei muscoli del gomito che noi utilizziamo per fare quel gesto specifico del tennis. Sì. È molto simile però al gesto in alcuni movimenti del golf o appunto, come stavo dicendo prima, anche dell'elettricista. Quindi sono movimenti di torsione del polso, sì, che comportano una sollecitazione a livello del gomito. Mm. Nel golf questo può essere presente soprattutto se una persona lo fa in una maniera atletica e non lo fa semplicemente per diletto, per passare qualche ora al sabato e la domenica. Allora, in questo tipo di persone che hanno un'attività intensa sul golf, io consiglierei di valutare bene, pianificare bene la preparazione atletica al golf. Quindi ci sono anche in questo caso esercizi specifici della muscolatura del gomito che vanno assolutamente praticati per evitare che si sviluppi la epicondilite. E quindi evidentemente il nostro ascoltatore non ha fatto probabilmente una buona preparazione prima di dedicarsi a questa pratica. Ecco, questo però è essere sempre in tempo. Assolutamente sì. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo per tardi. Convertirsi alla gradualità, dottor Confalonieri. No? Sì, sì. Costanza invece ci chiama da Bologna. Buongiorno Costanza. Buongiorno. Io volevo un consiglio riguardo la caviglia e la corsa, nel senso che mi sono rotta i legamenti esterni della caviglia circa 2 anni fa, sì, e adesso ho la passione per la corsa, mi piace correre al parco per 20 minuti la mattina. Sì. Solo che recentemente, ho cominciato da poco, e adesso mi tornano dei problemi sulla caviglia, allora volevo capire se è il caso di smettere perché non, la mia caviglia non è proprio in grado, se magari c'è qualche accorgimento per cui posso continuare a correre magari con delle scarpe adatte, con una cavigliera. Le scarpe adatte, Costanza, le usi? Mi viene da darti del tu perché hai una voce così giovane. Sì, sì. Ecco, le usi le scarpe adatte? Allora, ho la costanza un po' sporca perché per 2 volte non ho usato delle scarpe troppo piatte. Potrebbe anche essere quello, forse. Vi conosco, mascherine. Allora, dottor Respizzi. Sì, dunque, una instabilità di caviglia che è conseguente alla lesione dei legamenti che ha descritto la nostra ascoltatrice non è una causa che vieta la pratica della corsa. Bisogna anche in questo caso avere un po' di precauzioni e quindi io consiglio intanto di capire bene qual è l'entità di questa instabilità della caviglia, naturalmente. Fatto questo, come fa a capirlo? Basta farsi visitare dalle esperte mani di un medico, sì, che ti dice già quanto instabile sei. Sì. A quel punto l'utilizzo della scarpa corretta su terreni lisci, senza rischi particolari, facendo una corsa lineare, senza fare strane curve o cose del genere, né salita né discesa, non dovrebbe essere un limite. Quello che è opportuno fare eventualmente è di rinforzare, prima di mettersi a correre, la muscolatura della caviglia, quindi la muscolatura del polpaccio. Capisco che per una ragazza questo non è proprio il massimo del consiglio, perché ma perché ha una figlia anche lei, quindi il polpacciotto, esatto, alle ragazze non piace. Lo so, però polpacciotto per correre serve. Sì. Confalonieri, penso che sei d'accordo con me. Assolutamente. E spesso manca proprio questo lavoro di prevenzione attraverso il rafforzamento e la stabilizzazione della caviglia e del piede, e tutto sommato poi i bodybuilder sanno è difficile ingrossare il polpaccio, quindi è un muscolo che possiamo anche rafforzare senza che aumenti molto di volume, quindi unire l'utile al dilettevole dal punto di vista estetico. E poi se è ben definito è anche più bello, poi la caviglia sembra più sottile. Rapporto, no, certamente so. Sì. Ci vogliono le scarpe adatte a quel punto per sfilare. Basta che non corrano con lo stiletto, però. Esatto. Allora, Costanza può correre in piano. Costanza, mi raccomando, le scarpe. Aurelio, da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ho un problema che mi è venuta una protrusione tra la lombare 4 e 5. 6 anni fa la prima volta. Io sono uno che va 3 volte alla settimana in palestra e la domenica in più vado a fare un 12 chilometri e ci impiego un'ora. Sì. Però da marzo che mi è venuta di nuovo fuori questa protrusione non riesco più a fare palestra, non riesco più a correre, in più faccio il tassista 10 ore seduto in macchina e volevo qualche consiglio su alcuni esercizi, cosa fare per rinforzare un po' la colonna in modo da rimettere a posto questa protrusione. Certo. Visto che i neurochirurghi dicono per loro l'operazione è l'unico rimedio, ma io non voglio farmi operare. Certo, si dice no, che sia la lista d'attesa una cura anche per l'ernia, no, dottor Confalonieri? Beh, è un po' maligna questa. E soprattutto comunque, nel caso di... Bisogna farlo muovere, perché lei ha in mente se Aurelia ha una moglie, che Aurelio non può più fare attività sportiva, e quando voi smettete di fare l'attività sportiva diventate pesantissimi, nervosi, per cui facciamo muovere subito Aurelio. Che significa che io che ne faccio pochissimo sono già in partenza pesante. No, a parte quello, purtroppo credo che ci sia stato un aggravamento in questo caso di una protrusione di fatto già riscontrata, quindi il primo consiglio è innanzitutto di rivalutare la situazione per vedere se questa protrusione non è di fatto diventata un'ernia con una sofferenza nervosa importante, perché a quel punto davvero l'unica soluzione è l'intervento. Nell'attesa? Qualora non fosse così, c'è la necessità di potenziare tutta quella muscolatura che consente di diminuire il carico specifico a livello della colonna, e quindi in particolare glutei, addominali, obliqui, eretti, eventualmente lombari e paravertebrali. Io li potenzierei prevalentemente in isometria e vedrei attraverso questo tipo di esercitazioni se riusciamo a ridurre il carico e quindi a consentire al nostro amico di continuare a fare sport. Eventualmente potrebbe poi sostituire la corsa con la bici o con il nuoto in modo tale da ridurre il sovraccarico traumatico diretto. Andiamo invece a Maria, che ci chiama da Viterbo. Maria, buongiorno. Buongiorno, ho 61 anni, 8 sì. mesi fa sono caduta e mi si è rotta l'anca, il femore, sì. E mi hanno inserito una protesi, adesso vorrei chiedere al dottore se posso riprendere la bicicletta, come mezzo di, non a scopo agonistico, ma certo. come mezzo di trasporto. Come mezzo di trasporto. Grazie. Grazie a lei Maria. Dottor Respizzi, può andare in bici Maria? Assolutamente sì. L'evoluzione della chirurgia dell'anca ha fatto in modo che adesso i colleghi ortopedici inseriscano delle protesi che sono molto molto resistenti nel tempo, e quindi non c'è più quel rischio di cui si parlava una volta di usura della protesi. Allora ci sono proprio molti lavori che indicano come gli sport a basso impatto, e la bici è uno di questi, siano indicati. Ad esempio, oltre alla bici, la signora può praticare in assoluta sicurezza il nuoto, il golf che abbiamo citato prima, e quindi tutte, anche l'acqua gym, ad esempio, quelle attività che o si svolgono sostenuti dall'acqua, oppure che prevedono che il nostro peso corporeo sia appoggiato sul sellino e che quindi l'anca non venga sovraccaricata. Ad esempio sconsiglierei alla signora il trekking, ecco, per dire, no? Però Maria vuole proprio solo spostarsi in bici. Benissimo, non c'è nessun problema. Magnifico. Nessun rischio. Allora abbiamo, prima di salutarci, Marco da Firenze ci fa un appunto e dice: non avete però detto come risolverla quando ce l'hai l'epicondilite. Ok sulla prevenzione, ci scrive Marco, ma... Sull'epicondilite ci ha beccato Marco, No, per carità. Una delle cose più efficaci per trattare l'epicondilite e farla passare sono i trattamenti con le onde d'urto. Io consiglio vivamente questo tipo di metodica, però attenzione, è una metodica difficile che prevede l'applicazione fatta da una persona, da un medico molto molto preparata, perché bisogna sapere dove bisogna andare a sparare questi benedetti urti. Quindi onde d'urto sicuramente, se effettuate da persona molto esperta. Un po' come ha dato il consiglio sui massaggi esatto. Sì, ma le mani devono essere beh. Allora noi abbiamo un minuto per salutarci, io direi riprendiamo un po' la ricetta, che sia anche buon augurante per fare attività sportiva in estate senza rischiare. Dottor Confalonieri, gradualità la dico io che sono pronta. Lei? Cosa aggiungiamo? Continuità. Quindi se cominciamo cerchiamo di proseguire per tutto il mese, non di bruciarci tutto subito, e incremento nel tempo dell'intensità e della quantità, e poi scegliamo soprattutto l'ora giusta sia rispetto alla temperatura sia rispetto all'organizzazione di tutta la nostra giornata. Dottor Respizzi, vuole aggiungere un paio di dettagli al volo? Un consiglio, non sottovalutare i segnali che ci invia il nostro corpo, perché se ci dice qualcosa, qualcosa c'è. Quindi dolorini, affaticamento, esatto. Non facciamo gli eroi, possiamo fermarci e poi provare magari il giorno dopo. Se il dolore comunque persiste, bisogna cambiare, o andiamo a parlare con qualcuno di bravo e di competente, oppure proviamo con un'altra attività. Oppure si scrive a humanitassalute.it, c'è anche la mia foto, Nicoletta. Si fanno le domande. E si fanno le domande. Allora, grazie al dottor Respizzi, che potete vedere anche in foto. Grazie, buona giornata e buone vacanze se è prossimo per la partenza. Non credo, perché dovrà rispondere ai nostri ascoltatori. Non sono prossimo alla partenza. Sanno, dottor Confalonieri, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Senz'altro saremo qua. Ci vediamo. Grazie e buona giornata a voi. Essere e benessere. Di Nicoletta Carbone.